La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla figura di Giuseppe Dossetti, cattolico, antifascista, riformatore e poi sacerdote impegnato nel rinnovamento della Chiesa. Ospite ai nostri microfoni Paolo Pombeni, autore del volume Giuseppe Dossetti, l'avventura politica di un riformatore cristiano, appena pubblicato da Il Mulino. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in occasione della Giornata della Memoria, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato all'Olocausto, per capire la storia, ricordare e vegliare affinché non si ripeta più niente di simile. La parola va a Dino Pesole. Cattolico, antifascista, autentico riformatore, docente di diritto, membro della Costituente e nei primi anni del secondo dopoguerra politico attivamente impegnato nella sinistra della Democrazia Cristiana. Contrario all'adesione al Patto Atlantico, nel 1951 lascia il partito. Poi in quella che potremmo definire una sua seconda vita, sacerdote attivamente impegnato nel rinnovamento della Chiesa fino al Concilio Vaticano II. Infine la decisione di ritirarsi alla vita monacale. È un personaggio di notevole spessore umano e morale, Giuseppe Dossetti, la cui figura ci viene ora riproposta a 100 anni dalla nascita nel libro di Paolo Pombeni, Giuseppe Dossetti, l'avventura politica di un riformatore cristiano, appena pubblicato dal Mulino. La mia non è mai stata una ricerca privata, intesa come anelito individuale a Dio, e neppure come aspirazione di un piccolo gruppo elitario più o meno separato, ma si è posta sempre in sinu ecclesiae, con immediatezza e totalità, sino ad assumere come suo punto di partenza e come costante condizione del suo esito il rapporto di ubbidienza rigorosa ad un vescovo e quindi il rapporto effettivo con tutta l'intera sua Chiesa. Dossetti ha avuto senza dubbio un ruolo di primissimo piano nel nostro paese. Con la Democrazia Cristiana, lo abbiamo già anticipato, i suoi rapporti furono anche molto contrastati. Al congresso di Venezia del giugno 1949 si consumò il confronto tra la proposta politica di Dossetti e la leadership di Alcide De Gasperi. Dossetti si presentò come il promotore del cosiddetto terzo tempo sociale, dopo la fase della ricostruzione e la promulgazione della Carta Costituzionale. De Gasperi non credeva pienamente nella stabilizzazione politica contro l'ipotesi di egemonia delle sinistre, che pure aveva realizzato. Dossetti riteneva al contrario che una coraggiosa politica di riforme avrebbe sia rafforzato definitivamente la Democrazia Cristiana, liberandola dall'esigenza dell'alleanza con i conservatori, sia indebolito definitivamente le forze della sinistra marxista. De Gasperi gli rispose così: «Sarei felice se mi riuscisse di scoprire ove si nasconda la molla segreta del tuo microcosmo per tentare il sincronismo delle nostre energie costruttive. Ma ogni volta che mi pare di esserti venuto incontro, sento che tu mi opponi una resistenza che chiami senso del dovere. E poiché non posso dubitare della sincerità di questo tuo sentimento, io mi arresto rassegnato sulla soglia della tua coscienza». Fondamentale fu la sua formazione. Terminato il liceo, Dossetti nel 1930 si iscrive alla facoltà di giurisprudenza a Bologna ed entra nell'azione cattolica sotto la guida di Don Dino Torreggiani. Seguirà il corso di Arturo Carlo Jemolo, che molti anni dopo, nel 72, gli darà sulla stampa un esplicito riconoscimento, muovendo a Paolo VI un rimprovero perché non aveva avuto il coraggio di nominarlo vescovo. Nel marzo del 1949, Dossetti, pur votando alla fine a favore, criticò la decisione di far aderire l'Italia al Patto Atlantico. A giugno, in occasione del congresso di Venezia, pronunciò un discorso interamente rivolto alla classe operaia da conquistare, anzi, che doveva essere liberata dal Partito Comunista. Discorso che voleva essere di pungolo alla DC e si concludeva con l'appello ad un atteggiamento altrettanto virile verso i ceti conservatori di quello che noi prendiamo, e l'abbiamo sempre preso, nei confronti dell'estrema sinistra. Togliatti, su Rinascita, scrisse che l'opposizione dossettiana a De Gasperi era di tendenze nettamente fasciste, al punto di ricalcare persino nelle parole le formule del fascismo. Il 6 luglio di quello stesso 1949, il futuro cardinale Giuseppe Siri, vescovo di Genova, molto ascoltato da Pio XII, si rivolgeva per iscritto a Monsignor Ronca, capo del cosiddetto Partito Romano, per segnalargli come la corrente che faceva capo all'onorevole Dossetti avesse queste caratteristiche. Organizzazione propria e piuttosto fanatica fede in colui che è riguardato ispiratore e capo. Azione di punta nel promuovere riforme sociali sulla cui piena giustizia non si è concordi e tutt'altro che sicuri. Azione di critica nei confronti del partito e del governo, condotta in quella forma pubblica, spettacolare e a tinta sabotatrice. E proprio di questo complesso rapporto, sia con De Gasperi, poi con Fanfani e con la stessa gerarchia vaticana, per arrivare poi alle scelte che Dossetti maturò negli anni 50 e 60 fino alla morte. Dossetti, lo ricordiamo, morì il 15 dicembre del 1996, a 83 anni. Parliamo con Paolo Pombeni, che insegna storia comparata dei sistemi politici europei all'Università di Bologna, autore del libro. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, abbiamo tratteggiato un po' per sommi capi la figura di questo importantissimo personaggio politico che ha avuto un ruolo, direi, importantissimo appunto nella società, nella politica italiana. Fu complesso il suo rapporto con la Democrazia Cristiana, ma anche col Partito Comunista, sembra di capire anche dalla sua ricostruzione. Sì, ovviamente, perché in uno dei quei discorsi, anzi proprio credo nel discorso che voi avete così bene citato, Dossetti dice questa famosa frase: ho imparato a guardare lontano. L'orizzonte di Dossetti non era quello, diciamo, politico del breve termine, anche non del brevissimo termine, ma era lo sforzo di interpretare la grande trasformazione storica. Ora, lui sembrava che sia da un lato la Chiesa non avesse sufficiente coraggio nel capire il cambiamento del mondo che stava verificando, ma altrettanto trovava che i comunisti, diciamo, avessero capito soltanto a metà questa trasformazione. E quindi questo lo pose nella, diciamo, difficile condizione di essere un eretico, diciamo, ripudiato dagli uni e dagli altri. Certo, come maturò poi la scelta di Dossetti di divenire sacerdote e infine poi di dedicarsi alla vita monacale, una scelta molto personale, molto intima? Sì, questa è una scelta molto intima che, per la verità, lui aveva in qualche modo sempre coltivato, perché lui fin da, diciamo, da giovane universitario si era messo nel terzo ordine francescano, aveva maturato questa vocazione alla consacrazione. Che poi, insomma, frenò, perché in quel momento gli sembrava che il compito principale di un cristiano fosse di non essere assente in un'ora fondamentale per il paese. Bisogna, per capire questo, bisogna pensare che questa generazione, diciamo, era un po' sotto due incubi. Uno, che si ripetesse il fatto che era successo con la Rivoluzione Francese, c'era stato un grande cambiamento del mondo da cui la Chiesa e i cattolici, i cristiani erano stati esclusi. Due, il fatto che di fronte all'avvento del fascismo, di nuovo, la Chiesa non aveva saputo capire l'importanza di questo passaggio storico. Per cui ritenne, per questa ragione, che fosse fondamentale che in quel momento anche un uomo come lui, che aveva la vocazione a fare l'uomo religioso, accettasse di fare il politico. Poi naturalmente lo fece bene e poi alla fine cercò di spiegare che quando si ritirava questo momento era venuto meno. Certo, però poi non è un abbandono vero e proprio, perché già negli anni Ottanta Dossetti poi torna a riflettere, anche con spunti di grande attualità e lucidità, sulla crisi della politica italiana che ancora oggi è in atto. Non c'è dubbio, lì c'è questa cosa un po' curiosa, un po' contraddittoria, che Dossetti, insomma, faceva violenza alla sua capacità politica, no? Cioè lui, come dire, lo dico con una battuta, non avrebbe voluto essere un politico, ma era più forte di lui, era questa grande capacità di essere sempre con le antenne capaci di capire la trasformazione storica. Quindi lui intervenne, diciamo, una volta ancora esplicitamente nel 56, quando fa questa importante campagna elettorale che per obbedienza al cardinale del Caro contro il sindaco comunista di Bologna Dozza, in cui lui va alla ricerca io mi permetto di dire, della sconfitta, cioè della prova provata che non era vero quello di cui si illudeva la Chiesa del Cardinale, cioè che se ci fosse stato un leader cattolico molto progressista, molto bravo, il cattolicesimo di fondo del popolo italiano si sarebbe risvegliato e avrebbe votato per lui. Così non avvenne, infatti Dossetti lo disse poi apertamente in un famoso discorso al Consiglio Comunale: io ho sempre saputo che i cattolici sono una minoranza. Poi ovviamente questa cosa ritorna da un punto di vista religioso con il Concilio, che è un altro grande momento di interpretazione di una crisi storica, in questo caso che va al di là della questione italiana, assume in maniera più ampia il problema del rapporto della Chiesa con la grande trasformazione storica che è avvenuta, e poi questo torna alla fine quando Dossetti ritiene che la svolta politica che sta maturando in Italia, ma non solo in Italia, perché di nuovo lui è sempre un uomo molto attento alla realtà internazionale, sia un qualcosa a cui bisogna dare risposta. Quindi non è solo il problema della difesa della Costituzione, che pure naturalmente è un problema importante, è proprio questa capacità di cogliere una trasformazione e di dire: attenzione, nella trasformazione non ci si può chiamare fuori, bisogna dare una risposta in qualche modo. E questo potrebbe anche essere un'eredità, un lascito che lo stesso pensiero di Dossetti trasferisce oggi a noi, alle generazioni successive, non ritiene? Io credo proprio che questa sia la vera eredità di Dossetti, al di là delle sue posizioni, che naturalmente possono essere condivise, non condivise, in alcuni casi vanno in una direzione, in altri casi vanno in una direzione un po' diversa, ma questo invito a guardare lontano mi pare un invito estremamente importante ed estremamente attuale, perché quella trasformazione che lui aveva in qualche misura intuito, oggi noi la stiamo vivendo in termini ancora più grandi, no? E la cosiddetta globalizzazione è il fenomeno che lui ha intuito in qualche maniera, ma che oggi sta travolgendo, mi permetto di dire, tutta la civiltà occidentale. Grazie molto per questi chiarimenti, Paolo Pombeni, e per questo suo interessante libro, Giuseppe Dossetti, L'avventura politica di un riformatore cristiano. Buona serata. Buona serata anche a voi. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte di La storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in occasione della giornata della memoria che si celebrerà domani in tutto il mondo, vi presenta un approfondimento dedicato all'Olocausto. Una riflessione su 7 parole chiave per capire in che modo i nazisti siano riusciti a insinuare l'odio ed attuare un'operazione di cancellazione contro un intero popolo. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 27 gennaio, alle 14.15 su History Channel. Peter Black, Museo del Memoriale dell'Olocausto degli Stati Uniti. Credo che la cosa più difficile per le persone alle prese con l'Olocausto sia capire come sia possibile che un gruppo di persone fosse così odiato e considerato pericoloso per quello che era, da arrivare alla conclusione di doverlo cancellare dalla faccia della terra. Michael Berenbaum, Università Ebraica Americana. Per capire l'Olocausto bisogna comprendere 6 termini: definizione, espropriazione, concentramento, Einsatzgruppen, deportazione, campi di sterminio. Definizione. Di norma definiamo gli ebrei sulla base dell'identità conservata, delle tradizioni praticate, delle credenze che incarnano nella loro vita. I tedeschi invece definivano gli ebrei sulla base della religione dei loro nonni. David Sirbelklang, Museo Yad Vashem, Israele. Quando nel gennaio del 1933 il regime sale al potere, parte del movimento nazista, la parte aggressiva, radicale, la più estremista, vuole sterminare gli ebrei in una notte. Iniziano così a promulgare leggi contro gli ebrei, Rapidamente gli ebrei vengono cacciati non solo dal servizio civile, ma anche da quei settori della società in cui ce n'erano tanti: istruzione, università, insegnanti, avvocati, medici. Gli ebrei diventano qualcosa di superfluo. Il culmine di questo primo periodo di legislazione si raggiunge con le leggi di Norimberga. Tali leggi servivano a determinare la cittadinanza in Germania, chi era cittadino e chi no. Le definizioni di chi fosse cittadino tedesco erano in realtà definizioni di chi non lo era. Gli unici a non essere considerati cittadini della Germania erano gli ebrei. Dalla metà del 1938 gli ebrei sono costretti ad aggiungere Israel come secondo nome per gli uomini e Sara come secondo nome per le donne. David Merwell, direttore del Museum of Jewish Heritage. In altre epoche della storia, gli ebrei potevano convertirsi, nascondersi assimilandosi al paese ospitante. Con la teoria razziale durante il periodo nazista, invece, gli ebrei restano tali a causa del sangue che scorre nelle loro vene. Non conta quello che hanno nel cuore o nella testa, conta solo quello che scorre nel loro sangue. La postilla finale di questa teoria è che se ci si vuole liberare degli ebrei, non lo si può fare con la conversione, come succedeva durante l'Inquisizione. Non lo si può fare in altro modo, che non sia ucciderli. Michael Berenbaum, Università Ebraica Americana. Espropriazione. La confisca delle ricchezze degli ebrei, delle loro proprietà, la registrazione di tutti i beni, l'impossibilità per gli ebrei di possedere case, proprietà. Dopo la cacciata degli ebrei, la gente si insedia nelle loro case, si appropria delle loro attività. In certa misura, le popolazioni locali capiscono che queste persone non sarebbero tornate. Non se ne chiedono il motivo, ma sono assolutamente certe che non sarebbero tornate. David Sirbelklang, Museo Yad Vashem, Israele. Uno degli oggetti tedeschi che più mi ha colpito personalmente nel nostro museo storico è un gioco chiamato Judenraus, ebrei fuori. Il gioco fu realizzato in Germania nel 1936, anno in cui fu realizzato Monopoly negli Stati Uniti. L'idea è la stessa del Monopoly, è un gioco per famiglie. Sulla scatola c'è scritto gioco per persone dagli 8 ai 99 anni, quindi famiglie multigenerazionali possono sedersi insieme al tavolo di un bar e giocarci. È un gioco in cui tu sei una pedina, lanci il dado e ti muovi sul tabellone raccogliendo delle cose. Chi ne raccoglie di più vince. Che cosa si raccoglie? Gli ebrei da cacciare dal proprio paese. Michael Berenbaum, Università Ebraica Americana. Einsatzgruppen, unità mobili di sterminio. Si tratta di uomini che massacrano senza ragione interi villaggi, città, comunità, persona dopo persona, città dopo città, proiettile dopo proiettile, giorno dopo giorno. Nessuno occultamento, è tutto palese e brutale. Nessuno sforzo per nascondere le loro azioni o le loro intenzioni. Quando pensavamo a come rappresentare le unità mobili di sterminio e i morti presso il Museo del Memoriale dell'Olocausto, ci è venuta in mente una visione contraria su cosa mostrare. Se avessimo mostrato i cadaveri ammucchiati e le fosse comuni, si sarebbe capito che era successo qualcosa di orribile, ma non si sarebbe mai compresa la natura del reato. Così abbiamo deciso di creare una torre di volti. Non volevamo mostrare i morti. Volevamo mostrare fondamentalmente i vivi e lasciare all'immaginazione ciò che è stato e non è più. Concentramento. Pensiamo prima al concentramento non riferito ai campi, ma a riserve che venivano costruite per contenere momentaneamente gli ebrei. Sebbene tutte le vittime abbiano alla fine patito la stessa sorte nei campi di sterminio, sono arrivate lì in modi differenti e in differenti condizioni. Ci sono quelli che credono che l'Olocausto sia stato progettato a tavolino. Non sono di quella scuola. Io vedo un sacco di improvvisazione, tanta sperimentazione. Vedo un sacco di inizi e fine, di fallimenti e poi di innovazione. Per esempio, i campi di concentramento sono stati sviluppati molto presto. Avevano molteplici funzioni, tra cui quella di fungere da colonia penale, luogo di riposo per tante persone. L'altra funzione dei campi di concentramento era quella di fornire manodopera di schiavi e lavoro forzato per l'industria tedesca. David Sirbelklang, Museo Yad Vashem, Israele. I nazisti crearono un loro lessico per molte cose, per cui invece di assassinio dicevano trattamento speciale o gestione speciale. Oltre a questi mi viene in mente pacco postale, con cui intendevano il portare fuori migliaia di ebrei e fucilarli. Reinsediamento, delocalizzazione, al di là del fiume, al di là delle montagne, erano tutti termini del genere dietro cui si nascondeva il genocidio del popolo ebraico. Michael Berenbaum, Università Ebraica Americana. Deportazione. I treni sono diventati un drammatico simbolo dell'Olocausto quanto i campi di sterminio. Le ferrovie rappresentano una novità, un nuovo modo di uccidere inventato dai nazisti. Col senno di poi, i ghetti servivano alla detenzione. Erano una riserva in cui venivano ammassati gli ebrei finché non fosse stata creata l'infrastruttura per il loro sterminio. I treni sono diventati un collegamento indispensabile per il trasporto degli ebrei che erano stati concentrati nei ghetti e deportati. Venivano ammassati. Che succedeva poi? Treni, deportazione, annientamento. Mark Twain una volta ha detto: ci sono verità, bugie e statistiche. Credo che Twain si sbagliasse, perché le statistiche rivelano verità fondamentali sull'Olocausto. A volte proprio la crudezza delle statistiche rivela la più grande di tutte le storie. Si vuole sapere quanti erano gli ebrei ungheresi? 437.402 ebrei, 147 treni, 54 giorni tra il 15 maggio e l'8 luglio. Si vuole sapere di più sulla deportazione dal ghetto di Varsavia? Dal 23 luglio al 21 settembre, in 61 giorni, 265.000 ebrei sono stati deportati a Treblinka. Si vuole sapere degli ebrei uccisi a Belzec? Un gruppo di 434.508 persone, di cui due sopravvissuti noti. Le statistiche rivelano una brutale, dolorosa, particolare, inevitabile verità. Campi di sterminio. Ho partecipato alla ricostruzione del memoriale di Belzec. Nelle fosse comuni abbiamo fatto una scoperta. Abbiamo scoperto una chiave, una serie di chiavi. Di solito non crediamo che una chiave sia un oggetto potente, ma vorrei spiegare meglio cosa rappresenti in questo caso. Una mattina la vittima esce di casa e si aspetta di ritornarci un giorno o l'altro e di trovare quella casa ancora lì. Si aspetta che lui stesso sia ancora vivo e sia al sicuro. Quando muore insieme alle sue chiavi e viene seppellito con esse, si capisce che la vittima non ha mai immaginato quale destino l'attendesse. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Olocausto, la fabbrica del male, regia di Eric Nelson, titolare di diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione A&D. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 27 gennaio, alle 14.15 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.